amici del Move to Groove, dopo questo stupendo weekend a vedere uno stupendo All-Star Game NBA, mamma mia che Dio ce ne scampi, ripuliamoci la bocca con questa grande prestazione. 18 febbraio 1990, Phoenix Suns 131, Golden State Warriors 113. Mattatore della serata sarà Tom Chambers, 56 punti, 8 rimbalzi con oltre il 60% dal campo. Ricordando però che questo non sarà il suo career high, perché il buon Tom sarà in grado di metterne anche 60 in una partita. Buongiorno a tutti! Grazie Paolo per questa palla 2 che riporta alle mie orecchie che ancora stanno sanguinando ascoltando, perché non posso vedere, anzi oggi lancerò ufficialmente l'hashtag, come parlate voi giovani, come siete ben più informati in tutto ciò che è digitale, lancio a fianco del Move to Groove l'hashtag cambiategli nome, perché non è pallacanestro. Ne parleremo almeno per quanto riguarda la parte dedicata allo Game insieme a Pietro Rossi, il nostro Rookie of the Year. Buongiorno Pietro. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, devi sapere che l'All-Star Game era l'appuntamento di metà stagione per noi immancabile. Era qualcosa che dava non solo un aspetto di aggregazione, come dice il nome stesso, di tutte le stelle per vederle una a fianco all'altra in una contrapposizione agonistica importante, perché c'era agonismo all'interno di questa competizione rappresentativa, ma fino a un certo punto. Poi la collegheremo anche al tema del format odierno, che è legato alla superstizione, alle abitudini, chiamiamole così in maniera più profana, abbandonando l'aspetto esoterico, ma tornando all'All-Star Game odierno. Da quello che ho letto, una formazione ha realizzato, ed è un obrobri, 211 punti. Confermi tutto ciò, immagino? Confermo, per un totale di 397, quindi una anche cosa, gli altri, come dire, non si sono mantenuti. Sì, quindi abbandonato ogni aspetto legato alla serietà, un circo Medrano contro il circo Togni, piuttosto che una partita di pallacanestro, e tanti sono stati gli episodi ormai diventati abitudine legati a questa realtà, per cui ribadisco davvero, per rispetto a quello che è lo sport, o che era lo sport più bello di sempre, hashtag cambiategli nome. È una cosa che per me almeno abbiamo o avete la dignità di riconoscere che questa qui non è più pallacanestro. Non era un appuntamento folcloristico vedere Isaiah Thomas, Sidney Moncrief, Larry Bird, Julius Irving, Moses Malone, Kevin McHale per quanto riguarda l'Est, dall'altra parte a Ovest Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Alex English e tanti altri che davano vita a delle competizioni intense. Poi ne parleremo anche di un All-Star Game finito ai supplementari e ci collegheremo all'aspetto di così scaramanzia che avrà una presenza per il format odierno, diciamo, molto incisiva. Quindi è stato, io ho visto semplicemente un 30 secondi arrivato sui social dove il più grande giocatore, Jokic, mi pare, ha fatto una discesa a due, passandosi la palla a una mano con un suo compagno di squadra a una velocità che, se lo facciamo io e Paolo Zanardi, andiamo più forte. Una cosa inguardabile, per poi concludere con uno scarico vicino a canestro per un atleta che è andato così a schiacciare pigramente. Capisco tutto, capisco il garbage time, capisco ogni aspetto relativo alla pallacanestro, ma qui pare proprio che si sia andati oltre, non trovi Pietro? Sì, secondo me hai detto la parola giusta all'inizio, in apertura: l'agonismo, manca completamente qualsiasi traccia di agonismo. Non c'è interesse nel competere. L'ultima volta che si è provato a fare un qualcosa un po' più, come dire, un po' più serio è stato quando è morto Bryant, Kobe Bryant, nel 2020, e quindi l'All-Star Game divenne una sorta di celebrazione dello stesso, però come dire, non è che debba morire per forza qualcuno per fare ma una partita per decente. Per l'amor di Dio. E io ti direi, da quando seguo la NBA con attenzione, quindi 2011, 2010, di All-Star Game decenti ce ne saranno stati due, forse tre. Ecco, per dirti com'è la situazione attuale. Una situazione che, come ho detto, piuttosto non fatelo se dovete farlo in questo modo. Le modalità, non so, ai tempi alcuni giurati selezionavano con un'attenzione per il pubblico che portava voto per i convocati dell'All-Star Game, ne uscivano veramente due formazioni molto preparate e tutti avevano voglia di vincere. Non dico che si abbandonava la spettacolarità. Certo, quando hai in campo da una parte Julius Irving, dall'altra parte Magic Johnson, quando hai questi nomi è inevitabile, la spettacolarità c'è e come, a dei livelli altissimi, ma c'era chiaramente una serietà, più che voglia di vincere, una serietà, un non prendere in giro il pubblico, perché questa veramente, da quel poco che ho visto, è stata una totale presa in giro. Pietro, adesso sicuramente sei più informato, ho parlato di un determinato modo per convocare gli atleti, adesso come funziona? Perché anche lì mi pare ci siano stati dei cambiamenti e non certo onorevoli. Ci sono stati dei cambiamenti, ora in percentuale è un tot al voto degli spettatori, un tot deciso dai compagni di squadra. I compagni di squadra mi sembra abbiano il 25% nel voto all'All-Star Game e il rimanente invece è tra media, ossia giornalisti, radio e quant'altro. Sì, una giuria. Esatto. Guarda, io ti direi, seguendo la parte pre, c'è comunque attenzione riguardo a come si seleziona gli All-Star. Magari questa parte del pubblico ha portato a due o tre sfalsi nella storia, tipo l'anno scorso Andrew Wiggins, role player nel best case scenario, è riuscito ad essere titolare all'All-Star Game grazie ai voti dei fan coreani, certo. Per dire. Non mi ricordo se l'anno scorso o due anni fa, comunque recentemente. L'attenzione comunque, secondo me, in linea di massima, bene o male, cioè, è la partita di per sé che è un disastro. Cioè, è brutto da dire, mi si perdoni il francese, ma ai giocatori non frega niente, cioè, sì, non interessa. E no, anche lì c'è tutta questa retorica del rispetto del gioco, la tradizione, perché l'All-Star Game, Kobe Bryant lo giocava in un modo, Jordan in un altro, Bird, c'era questo rispetto. Dalla generazione di LeBron James in poi, o meglio, da quando la generazione di LeBron James è diventata la generazione dominante nell'NBA odierna, lo Star Game è diventato una pagliacciata. Poi, non necessariamente causa e correlazione vanno di pari passo, però ecco, bisogna dire che magari due o tre indizi possono fare una prova. Certo, cominciano a essere delle correlazioni presenti. Io metto un brano musicale e poi parleremo di un All-Star Game che ci collegherà a quella che è la modalità di oggi nel Move to Groove, che è tra abitudine, superstizione, scaramanzia, nello sport forse è meglio dire questo termine. E poi al 333-180-9494 io so che tanti miei compagni o avversari, che poi li ritengo in un unico abbraccio vicini a me, perché è passato tanto tempo, ma insomma quello che è stato bello ed è stato anche molto formativo dal punto di vista dell'amicizia e delle nostre vite, tanto più che alcuni non ne riescono più a uscire. Io ampiamente poi parlerò anche di questo, però invece faccio un mea culpa, ho dovuto scrivere un Move to Groove proprio perché evidentemente la pallacanestro da dentro di me non riesce a uscire. Loro sono i Pleasure, il brano è Joyous e con gioia vi auguro un buon ascolto. Periodo di rivoluzione cestistica, sapete bene quello protagonista al Mood Groove dal 77 alla fine degli anni 80, la più grande ala forte bianca per me è stato Bobby Jones, il ministro della difesa, the Secretary of the Defense. Paolo Onofri involontariamente ha citato quella che è stata secondo me l'ala forte bianca più forte per quanto riguarda il periodo di normalizzazione, cioè Tom Chambers. Tom Chambers, a proposito di All-Star Game, fu selezionato all'ultimo secondo per la squadra dell'Ovest in quanto Ralph Sampson, grandissimo giocatore, risulta infortunato. Quindi c'è bisogno di una convocazione all'ultimo momento. Sarà convocato Tom Chambers. Risultato, pensa all'impegno, sarà MVP, sarà l'MVP della partita. Potrebbe anche dire White Man Can't Jump, perché è un grande atleta. A proposito di All-Star Game, fu chiamato come rimpiazzo di un infortunato Ralph Sampson e in quell'All-Star Game vinse anche l'MVP della partita. Questo era un fenomeno, peccato che ce n'erano altrettanti buoni a quel periodo. Qui racconto un episodio al nostro Pietro, lui me ne sta raccontando tanti, mi sta portando a una pallacanestro più vicina ai giorni nostri, per cui io ricambio collegandomi all'aspetto di abitudine, scaramanzia, tradizione a un altro episodio sempre di un All-Star Game. La partita è tiratissima e non so, magari è proprio quello del 1987, con le date non sono mai stato un fenomeno, un giocatore da Dallas, un giocatore completo, un ala guardia, un esterno molto atletico, dinamico, movimenti senza palla, capacità di ricezione, essere sempre al posto giusto al momento giusto, un realizzatore, mano morbidissima e allo stesso tempo avvicinamento a canestro molto incisivo. Sto parlando di Rolando Blackman, lo troveremo anche in Italia in quel di Milano a fine carriera e anche lì sarà protagonista e affronterà tutto ciò con grande professionalità e serietà. All-Star Game veramente molto tirato, nelle sue mani i due tiri liberi decisivi. Rolando Blackman si avvicina alla linea del personale, Isaiah Thomas si avvicina ovviamente per disturbare e per distrarlo, fa qualche battuta, lo prende in giro, lui risponde con un sorriso e non dà attenzione a tutto ciò. Avrà attenzione solo per il canestro, la palla nelle sue mani e il momento importante. E dalle sue labbra esce una parola che dirà due volte: confidence, baby, confidence. Uno dei momenti secondo me più belli in un All-Star Game, confidence baby, confidence, cioè vuol dire io ho fiducia, forza, ho fiducia, e infatti realizza il primo, il secondo ballonzola un po' sul ferro, e tra l'altro il secondo ballonzola, primo secondo ferro e poi entra, e quindi fortuna, ha portato fortuna oppure c'è qualcosa che va aiutata? La fortuna va aiutata probabilmente, questa sua determinazione, questa sua fiducia, io sono certo che ha dato la spinta giusta per realizzare i due tiri liberi decisivi. Rolando Blackman, non dimentichiamo, grandissimo giocatore, quindi non certo un episodio particolarmente fortunato, però ribadire in maniera così abbastanza esplicita, confidence baby, confidence è qualcosa che va oltre probabilmente la superstizione, anche se in questo caso, che dire, ha portato fortuna. Mettiamo un brano che non ha bisogno di presentazioni a tale proposito e trasformiamo in musica tutto ciò con Stevie Wonder. A tra poco. Secondo me del più grande errore di Coach Pat Riley per le cavalcate alle Finals NBA 94 con i miei Knicks è stato quello di non fidarsi tanto di lui e non farlo proprio mai scendere in campo alle Finals, complice uno Starks non tanto caldo al tiro. Io l'avrei provato perché questo era veramente forte. Riley non si è fidato e con l'andare del tempo poi se ne scusò perché ammise anche lui dell'errore. Peccato. Ecco, che poi arrivò in Italia, vinse uno scudetto con Milano, praticamente facendo un clinic difensivo sull'allora playmaker fortitudo Alexander Georgis, che gli mise le manette e portò Milano alla vittoria dello scudetto. Pensa la serietà di questo atleta, arriva in Italia e determinate caratteristiche naturali dovute anche a una reattività fisica non le ha più, come si trasforma diventando importante per il gioco di squadra. Parleremo anche di questo, di giocatori che hanno saputo trasformare il loro gioco, uno su tutti, il grande DJ Dennis Johnson per i Boston Celtics. Non è il tema di oggi, però insomma qualche citazione la possiamo portare. Lo stesso Mark Aguirre per quanto riguarda il passaggio ai Detroit Pistons. Beh, sono caratteristiche fondamentali di duttilità per i grandi campioni e i grandi professionisti. Hai qualcosa a cui magari non vuoi dirlo, insomma, però un particolare motivo di scaramanzia, di tradizione. Io ad esempio sono legato al numero 7, per dire. Ma senti te. È una cosa che mi è naturale, molte volte io tocco le cose 7 volte, anche il cursore del mixer lo tocco 7 volte prima di andare, ma lo faccio ormai naturalmente, sono talmente così affezionato, legato, era il mio numero di maglia, ma già da prima il 7 è stato un numero che non so per quale motivo mi sentivo portasse bene, perdonate l'immediata descrizione, porta bene, però insomma è una numerologia, è un aspetto cabalistico, certo, che hai qualche attinenza con tutto ciò, Pietro? Allora, personalmente, ossia per eventi che riguardano la vita personale, no, non mi ritengo scaramantico. Nel tifo, sì, nel tifo assolutamente sì. Io ricordo nelle finals del 2016 dove c'era Cleveland di LeBron James che era molto sfavorita contro i Golden State Warriors che vinsero 73 partite facendo il nuovo record. Esatto. E dato che è sempre divertente di fare gli sfavoriti, per quanto poi possa essere sfavorita una squadra di LeBron James, io guardavo le finali sempre nella stessa posizione, allo stesso punto del divano, con le gambe accavallate nello stesso modo, perché da quando iniziarono a a rimontare, diciamo così, la posizione era quella, e quindi pensai, beh, sicuramente starò vincendo per questo. Certo. Quindi, no, la mantenni per tutte le altre restanti partite. Ci si sente anche, sì, protagonista, alla strategia del gioco che sta evolvendo in maniera positiva per la squadra alla quale teniamo. Sì, esatto, non cambiamo posizione, restiamo così. Grande, grande Paolo, aggiunge alla mia formazione di chi ha trasformato il proprio gioco, grandissimo anche lui, Ron Harper. Lo sai, lo stavo per dire, grande scorer a Cleveland, e invece ai Bulls diventa, ora non ti dico un mastino, no, però un iniziatore di gioco. Certo, anche un portapalla, esatto, il ruolo, esatto, del playmaker non esisteva già più, però lui porta palla. Tra l'altro Ron Harper a fine carriera fa fondamentalmente da chioccia al primo Bryant dei Los Angeles Lakers. Infatti Harper vince il secondo tripeat con i Bulls e poi vince due dei tre titoli che Los Angeles vincerà a inizio 2000. Quindi Harper ha tipo cinque titoli NBA. Giocatore così vincente, esatto, che è fortissimo. E tra l'altro, detrattore di Jordan non è indifferente, Harper non lo sopporta nel famoso, non è casuale, anche secondo me non è casuale questa cosa. Poi adesso Jordan, beh, per me da Jordan in avanti il più grande giocatore di tutti i tempi è Michael Jordan. Ho apprezzato tantissimo la sua autocritica, lui stesso ha ammesso: non vorrei che tutto questo che stiamo vivendo e ne siamo allucinati, non vorrei che inconsapevolmente sia stata colpa mia. È l'iniziatore per determinati aspetti come l'isolamento, come tante cose della omogeneità di gioco, ne è responsabile. Ai tempi ne è stato un responsabile vincente, farne un modello. Jordan lo sopportino in pochi, citofonare Scottie Pippen. È il momento del 333-180-9494 e mi rivolgo a ex compagni, amici, per la pallacanestro che abbiamo vissuto assieme e quella che è la superstizione. Intanto rendo noto il mio motivo di conversazione. Durante l'esecuzione di un tiro libero, durante un momento importante, l'uscita di un tiro decisivo, si diceva all'avversario un nome per portargli sfortuna, perché l'esito fosse negativo. Io non l'ho mai capito però perché si diceva questo nome, che nella seconda parte, dopo la pubblicità, ripeterò. Non è una parolaccia, è un nome proprio di persona. Ma perché proprio lui? Cosa vi ha fatto di male? Oppure perché si merita tutto ciò? Magari io so che siete all'ascolto e magari mi potete dare una mano. Allora, metto l'ultimo brano, poi vado in pubblicità. Magari lo sa anche Paolo e mi dà risposta a lui. Perché si diceva urlando Oreste? Ma cosa ha fatto di male Oreste? Perché si diceva Oreste? baby, you can call me that. My papa was. Cause I never done working from morning till night, and the money didn't seem to ever come out right. No, no, Papa was a tramp, but he was a lover too. So why can't I do like Papa do? Or like a Papa do, yeah. Like a Papa do now. Cause I'm his son. Why can't I be like my daddy? Lord, I'm nasty. Alright, if you wanna call me that, go ahead. I guess Papa was too. Just cause I don't take nobody's mess, I'll get mad in a minute and jump in your chest. Oreste! Low down, alright? Per un fatto di acustica, urlalo dentro a un palazzetto quel nome ad alta voce. Fa sbagliare chiunque. Like my papa do. Siete d'accordo con questa interpretazione? Io, non credo che Larry Bird con Oreste, non credo, insomma, però... Chissà se Rolando Blackman avrebbe sbagliato quei titoli. Chissà, Oreste si sentiva quando, ecco, mi hanno lanciato l'anatema. E aspetto da chi sta ascoltando anche al 333-180-9494 questi anatemi per un esito non esattamente vincente nel mondo dello sport. Ve ne sono secondo me tantissimi. E a proposito di Oreste, adesso l'ho detto più volte, mi esplode il mixer, non lo so cosa mi può capitare, però insomma diciamo che ci credo fino a un certo punto, Like a papa do now, like my papa do, cause I'm his son, can't you understand? Tanto più che l'ultimo format che abbiamo fatto, dedicato a prendere posizione, avere un grande fondoschiena, anche se diciamo può portare a qualche risata già come tema della trasmissione stessa, però l'importanza di avere un sedere è qualcosa, non per quanto riguarda la fortuna, che oggi tra l'altro centrale. È centrale, ma è centrale anche per il tagliafuori, per prendere posizione spalle a canestro, e appunto ne abbiamo fatto un approfondimento con un ospite, Stefano Gherardi, per parlare del grande Moses Gambini. E Stefano Gherardi ha salutato Zanna Paolo Zanardi dicendo: ti saluta la Liviana. E io chi? E Zanardi: no, compagna, no, di Oreste, no, ma un altro aspetto era il tuo, e si attaccava, si toccava il vicino, sì, era il tuo. Sì, per sì. Noi c'erano personaggi come Malavasi, un allenatore di cui spesso... Allenatore è una parola grossa, per cui un personaggio, ecco, per quanto riguarda la pallacanestro giovanile, che veniva additato tuo ogni volta che entrava all'interno della furla, oppure anche il più fortunato, che poi è diventato un allenatore, che si è confermato, ma dal punto di vista giovanile, quando entrava Alessandro Finelli, tuo Finelli, si diceva sempre. Adesso certe cose possono, ma anche allora, poi non erano certo dei segreti. E poi, come ben sapete, la Fortitudo ha una tradizione ecclesiastica molto importante, no? Nasce da una parrocchia, c'è la parrocchia e la stessa chiesa all'interno della furla, e ovviamente c'era il don, all'epoca era Don Corrado, e non ti dico ogni volta che si vedeva Don Corrado, beh, tuo Don Corrado, quello proprio, e ovviamente ci si toccava nei punti che chiaramente potete immaginare, esatto, intuire da soli, tuo Don Corrado, no, e poi senza ritorno si aggiunge, non è che me lo puoi ridare. No, no, te lo tieni. O lo passi a un altro o te lo tieni. Ecco, per quanto io abbia citato dei personaggi non proprio simpaticissimi, non avevo la superstizione del tuo. Era un po' come tua Prince Verde senza ritorno, un altro aspetto che è stato protagonista di questa macchina strana. Se poi la vedevi verde, oh mamma mia, da scappare via per l'aspetto nefasto che ne avrebbe riportato. Sai cos'è, Pietro, secondo me? Che fare allenamento è fatica. Sì, bisogna trovare delle distrazioni. È vero, fare allenamento è fatica, soprattutto quando si gioca a determinati livelli. C'è il timore di una prestazione che anticipa la competizione stessa, c'è l'impegno fisico, c'è la fatica, e tanta che viene poi trasformata anche in un momento folcloristico con questo tuo Don Corrado senza ritorno. Non è vero, ma ci credo, molte volte è una giustificazione per i nostri risultati non sempre positivi, mi viene da dire. Mi ricordo, mia nonna diceva, magari la scaramanzia è maleducazione, ma immaginati se porto davvero male, quindi no, c'è nel dubbio. Non è vero, ma ci credo, eh. Certi altri riti ovviamente sono per scacciare tutto ciò. Io quando sentivo Oreste, non perché fossi particolarmente acculturato, come ben sapete, ma a me veniva in mente l'amico di Pilade nel bel gancio nelle Metamorfosi di Ovidio, mi veniva in mente Oreste e Pilade. Nessuno mi sta dando una giustificazione, a parte Paolo, per quanto riguarda Oreste, per cui insomma o porta veramente un malanno oppure era una cosa così, tanto per dire. Credo la seconda, però vi posso assicurare che era molto molto presente. E intanto vi ricordo che al Move to Groove la prossima o nelle prossime puntate devi sapere, Pietro, che mi ha contattato un arbitro che saluta. Bello. Stanghellini, e infatti lo vorrei qua in diretta con noi per dare approfondimento anche a quello che è l'aspetto più difficile al mondo, dicono gli americani, insomma, che hanno la pallacanestro nella loro cultura in maniera più presente sicuramente che nella nostra. Le cose più difficili al mondo sono due: mantenere saldo un matrimonio e arbitrare una partita di pallacanestro. Come dargli torto. D'accordissimo. Thank you. fortunatamente sono riuscito a staccarmi da determinati cliché o stereotipi nella realtà cestistica, poi crescendo, insomma, ma questa magari è realtà di un altro motivo di forma. Talmud Groove dall'inizio, certo, un'aggregazione, anche perché da ragazzo a 10 anni, altezza 1,73, ovviamente preso in giro in maniera, perché sapete, gli adolescenti o i preadolescenti sono veramente cattivi quando vogliono, per cui sempre allontanato, trovo, oltre che in uno sport bellissimo, invece un motivo in cui non c'era bisogno di sentirsi diversi, anzi guarda, per cui è tutto bello, è tutto fantastico. Quando poi, arrivando più vicino alla età adulta, tra i 17 e i 18, ti rendi conto che è una setta, ci sono chiusure, c'è una determinata situazione che tende a un isolamento, ecco, allora ti rendi conto che è anche il momento di abbandonare questo abbraccio. Ma di questo aspetto filosofico magari ne daremo approfondimento in una prossima puntata. Che ne pensi, Pietro? Perché no? Perché no? Scaramantico, la fortuna se la tira, non la scaccia via. A me mi ha sempre insegnato questo. Vedo che stai annuendo a questa. Io sono molto d'accordo con Paolo. E noi vi ringraziamo per l'attenzione, sperando di avervi fatto una buona compagnia per la puntata di oggi del Mood Groove. Non è vero, ma ci credo, accompagnata dall'hashtag cambiategli nome. Ogni martedì sarà sui 103.1, un format che nasce addirittura prima del Breakfast Club, e questo vi accompagnerà a colazione per il secondo giorno della settimana, l'imprevedibile, a questo punto anche esoterico, martedì. Tra poco Edipeo Enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Oggi è martedì, non perdete il vinile della settimana, curato e condotto invece da Andrea Gozza. Questa è la mattinata sui 103.1. Domani Libri a colazione con Silvia Albertazzi, Stefano Calanchi per il Voltiamo Pagina, e quindi vi saluto ricordando il 333-180-9494. Che dici, Pietro? Tocchiamo ferro dopo tutte nel dubbio. dai, perché facciamo no? Così, e mandiamo un grande abbraccio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao, a domani, ciao, a ciao Pietro, ciao.